Radio 24 Reportage. Shoah, la musica del dolore, di Arcangelo Rocciola e Filippo Santelli. Pochod Häftling, marcia dei Häftling, dei prigionieri. Assiderato nel campo di Theresienstadt, Terezin, in ceco, il compositore Rudolf Karel, ebreo di Praga, riuscì a scrivere un'ultima pagina di musica. Questa. La marcia dei prigionieri. Francesco Lotoro la suona sul pianoforte di casa, nella zona industriale di Barletta. È una delle partiture più preziose delle migliaia che ha raccolto in questi 30 anni di ricerca, da quando, convertitosi all'ebraismo, il pianista pugliese ha deciso di raccogliere e pubblicare tutta la musica composta nei campi di concentramento. Erano gli anni in cui cadevano i vari muri degli ex paesi socialisti e questo facilitava l'arrivo di non solo di notizie, di informazioni, ma anche di materiale che fino adesso giaceva in biblioteche comunali, nazionali, da Cracovia, Varsavia, Praga, eccetera. Seppi di alcune opere, soprattutto una sonata per pianoforte scritta da un compositore che morì ad Auschwitz. Quest'opera era di Gideon Klein, compositore, pianista, trasferito ad Auschwitz e da lì alle miniere di carbone di Fürstengrube. Il suo corpo non fu mai trovato. Come musicista sentivo che c'era qualcosa che andava fatto. Non hai idea all'inizio di cosa andavi incontro. Pensavi tutta più che te la saresti cavata in pochi anni con alcune decine, un centinaio di opere che possono essere state scritte un po' ad Auschwitz, un po' a Terezin. In realtà quella che si aprì fu un'autentica voragine. Nel corso degli anni alcune opere composte da musicisti ebrei durante la prigionia erano già state recuperate, specie quelle scritte a Terezin, il campo vicino Praga, dove finirono alcuni dei maggiori intellettuali dell'epoca. Ma Francesco Lotoro vuole ritrovare tutta la musica dei campi, di professionisti e dilettanti, di militari e civili, ufficiale o popolare. Occorreva individuare di tutti i sopravvissuti quelli musicisti o quelli anche amatori, dilettanti che avessero creato, prodotto musica. Certe volte la mente del deportato, dell'ex deportato, quando lo incontri, non è limpida, ma non devi forzarla. Senza fretta fai parlare il sopravvissuto per ore, magari cerchi anche di divertirti un po' con lui, ricordare degli episodi anche, come dire, più piacevoli. Alla fine la melodia torna insieme alle parole. Ich hab ein Heimatland. La musica generalmente non era un fenomeno ostacolato nei campi. Nei casi in cui c'erano motivi politici per i quali era interdetto scrivere, e sono soprattutto i prigionieri politici, si poteva anche fare uso della carta igienica. Il prigioniero politico partecipò alla resistenza cecoslovacca, fu gravemente colpito dalla dissenteria e quindi come dissenterico disponeva di quantità industriali di carta igienica e carbonella vegetale. Eppure con questo sistema lui scrive un'intera opera in 5 atti, i 3 capelli del vecchio saggio, un nonet che lasciò però in partitura pianistica e altri piccoli pezzi. Thank you. Molte volte l'ordine di comporre viene dagli stessi carcerieri, dai capò o dagli ufficiali nazisti. Ich bitte mich lachen Sie über die Sachen, die täglich mir hier so oft passieren. Io la classifico come musica obbligata, cioè musica scritta o sotto invito, diciamo, del capo della maggior parte dei casi. Gli ebrei a Sobibor arrangiano delle famose canzoni tedesche per l'intrattenimento del villaggio degli ufficiali che sorgeva poco fuori il campo. Il dolore è in filigrana in queste partiture, viaggia nella partitura, ma il musicista sa estranearsi. Un giorno la ricerca di Lotoro si allarga ancora. Oltre a quelle dei musicisti ebrei, ci sono altre memorie da raccogliere. Tutti i gruppi sociali o religiosi che in un modo o nell'altro siano stati discriminati, perseguitati per motivi politici o pseudo-razziali, ha allungato nel tempo e nello spazio la ricerca, perché ovviamente questo ha compreso musica scritta, creata per esempio dai Sinti e dai Roma. La musica scritta dai militari di tutte le parti in guerra, anche di quella dei tedeschi nei campi degli alleati. Il mio compito non è quello di classificare la musica in base a ideologie o appartenenze politiche di cittadinanza. In questo devo essere innanzitutto un musicista. Nella sua casa di Barletta, Francesco Lotoro fonda l'Istituto di Musica Concentrazionaria. Lo presiede la moglie. Scoperta dopo scoperta, il maestro si imbatte anche in alcuni brani composti da italiani. Madre mio ciel, la luce segreta sei tu. È la favola di Natale, scritta da Giovannino Guareschi, padre di Peppone e Don Camillo, e musicata da Arturo Coppola, suo compagno di prigionia nel campo di Sandbostel. E poi melodie popolari come Stella di Porto, composta nella prigione di Regina Celi, che Lotoro ricostruisce grazie ai ricordi di un'anziana signora romana. Era una canzone indirizzata a Celeste di Porto, chiamata Stella per la sua bellezza, che viene accusata di collaborazionismo. E la sua delazione provocò numerosi trasferimenti a Regina Celi e successive deportazioni nei campi di concentramento. Stella del Porto, stella d'Oriente, ne hai fatti viagni e danti. Tu fosti la spia de Piazza Giudia. Continua a cercare Francesco Lotoro. Oggi con internet è un po' più facile, non serve viaggiare come all'inizio. Gli bastano la mail e alcune talpe, colleghi sparsi in giro per il mondo che setacciano biblioteche e mercatini dell'antiquariato. Anche a Barletta però il lavoro continua. A casa ci sono 4.000 opere archiviate ma non catalogate. 407 sono state registrate e pubblicate a sue spese. Quando si arriva a opere complesse, l'orchestra, quartetti, quintetti, opere teatrali, lì devi produrre giorni e giorni di musica con musicisti che devono fare prove e che devono essere pagate. Non dico che oggi la ricerca si è fermata, si è enormemente rallentata. Nel frattempo Lotoro ha deciso di pubblicare alcuni degli spartiti in forma cartacea, per ora il primo di 10 volumi che conterranno parte della musica raccolta nei campi di prigionia. Intanto cerca qualche finanziatore e una nuova sede per il suo istituto. Questa ricerca comunque sarà, come dire, pienamente valorizzata non durante questa generazione. Questo materiale non è mio. Mia potrà essere la ricerca, ma questo patrimonio appartiene all'umanità. Ecco, studenti, musicisti, professori, tra 50 anni possano suonare questa musica, beneficiarne come un bene normale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.